2024 di Enrico Pagliarini. Puntata dell'11 e 12 ottobre 2008, benvenuti o bentornati a 2024, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Il nostro indirizzo digitale 2024 è radio24.it. Anche questa puntata, come tutte le puntate di 2024, sarà disponibile sul nostro sito internet www.radio24.it e come sempre vi consiglio di abbonarvi gratuitamente al servizio podcast. Tutte le informazioni sono online oppure potete inviarci una email all'indirizzo che vi ricordavo poco fa. In questo modo potete downloadare gratuitamente la nostra puntata senza la pubblicità, quindi poterla ascoltare tutta di filata, potete andare anche in avanti o tornare indietro se qualche cosa vi è sfuggito e soprattutto potete riascoltarci quando preferite e sullo strumento che preferite, il computer, il lettore MP3, eccetera, eccetera, il telefonino ad esempio. Oggi ci occuperemo di cinema online con una soluzione, una idea, un servizio italiano per vedersi i film sul computer e poi parleremo anche, tra le altre cose, di un'attenzione che dovremmo cominciare ad avere quando pensiamo ad una nuova casa oppure alla ristrutturazione della casa, insomma del rapporto tra l'ambiente in cui viviamo e la tecnologia. Molto importante, molto più di quanto possa sembrare. Ci sono poche notizie questa settimana dal mondo della tecnologia, poche di grande interesse, alcune potrebbero arrivare la prossima settimana dalla California, perché Steve Jobs presenterà martedì 14 ottobre i nuovi computer portatili di Apple. Alcuni analisti si aspettano un taglio dei prezzi di listino. Oggi il più economico tra i notebook di Apple costa 999 euro, quindi attorno al migliaio di euro, il doppio rispetto ad un PC portatile con sistema operativo Windows. Sicuramente non si tratta di prodotti paragonabili per caratteristiche, ma non c'è dubbio che il prezzo di entrata per i prodotti di Apple è giudicato da molti troppo elevato. Negli Stati Uniti intanto alcuni cominciano a temere che la crisi finanziaria, insomma quella di cui parliamo molto spesso anche qui a Radio 24 e che tutti conoscete, che la crisi finanziaria possa colpire anche alcune note start-up tecnologiche, aziende già di successo che però sono giudicate ancora poco solide sotto il profilo finanziario. Secondo la rivista online CNET, una delle principali ad occuparsi di tecnologia, a rischio ci sarebbero 11 società. Tra queste, pensate un po', Second Life, MySpace, Skype, Twitter e il motore di ricerca Ask, che tra l'altro recentemente ha rinnovato il sistema di ricerca e tenta di guadagnare quote di mercato approfittando delle distrazioni che hanno avuto quest'estate Yahoo e Microsoft. Ricorderete che Microsoft ha cercato inutilmente di conquistare, di acquistare Yahoo. Secondo CNET non è sufficiente essere un'azienda di successo e il momento potrebbe segnare la fine di queste aziende. Vedremo poi che cosa succederà nei prossimi mesi e anche come si evolverà questo momento. Notizie dall'Italia, una notizia positiva per il futuro della rete italiana. Francesco Caio è stato nominato superconsulente del Ministero per lo Sviluppo Economico per la definizione di un progetto sulla banda larga, quindi partirà anche una commissione. Caio, che ha una lunga esperienza nel settore delle telecomunicazioni sia in Italia che all'estero, è già stato consulente del governo britannico sempre sulla banda larga. Ricorderete che lui stesso ce ne ha parlato a 2024 qualche mese fa. Un ulteriore passo in avanti viene giudicato, questa scelta viene giudicata un ulteriore passo in avanti verso la conclusione di un dibattito che anche in Italia dovrà portare alla definizione di una nuova rete di accesso ad internet, quella che gli esperti chiamano Next Generation Network. Sull'evoluzione della rete di accesso per ora in mano sostanzialmente a Telecom, come sapete a Telecom Italia, si pronuncerà entro l'anno anche l'autorità di settore. Una notizia che è più che altro un annuncio per la prossima settimana. Vi ricordo che la prossima settimana torna a Milano SMAU. Radio 24 seguirà il Salone della Business Technology tutti i giorni da martedì 15 a sabato 18 ottobre con uno speciale in onda ogni sera tra le 21.45 e le 22. quindi anche su questo potete inviarci messaggi, richieste, desideri via mail al nostro indirizzo di posta elettronica 2024, quindi 2024, letradio24.it. Adesso parliamo di cinema, di film, e ne parliamo con un protagonista del settore e soprattutto protagonista di questa trasformazione che dalla tradizione ci sta portando sempre più a prodotti, come gli esperti dicono, liquidi, che viaggiano in rete, che vengono distribuiti attraverso bit e non solo con pellicole, con supporti come i DVD, come i vecchi nastri VHS, eccetera eccetera. Ne parliamo con Maurizio Ferrari, che è fondatore e direttore dello sviluppo del business di Film Is Now. Benvenuto a 2024. Grazie. Oggi tu ti occupi dello sviluppo del vostro business, un business sicuramente molto interessante, ma anche molto preoccupato, perché viene costantemente attaccato sul web. Parleremo della trasformazione che sta subendo questo settore in questi anni, non solo anni collegati all'arrivo di internet, ma anni in cui il digitale in generale ha cambiato molte cose. Film Is Now è un servizio che permette di acquistare o noleggiare film, però spieghiamo come funziona e da dove siete partiti. Certo, noi siamo partiti 2 anni fa ormai, sostanzialmente andando a recuperare esperienze che negli Stati Uniti erano già state lanciate, addirittura nel 2002, con le prime iniziative di Cinema Now piuttosto che di Movie Link. Il servizio è molto semplice, mettiamo a disposizione una videoteca online che quindi a portata di click consente al navigatore del web di scaricarsi un film in qualità DVD e in modo assolutamente legale. Questa è la differenza fondamentale fra quello che facciamo noi e ciò che invece viene reso disponibile dai circuiti peer-to-peer più diffusi, che invece stanno nella logica dell'illegalità. Senti, i vostri interlocutori chi sono? I distributori di film? Sì, i nostri fornitori, o comunque coloro che ci rilasciano i diritti per la distribuzione sul web, sono le case produttrici e distributrici di film. Quindi noi abbiamo rapporti con le grandi major, come Warner per esempio, ma abbiamo anche rapporti con i piccoli produttori indipendenti italiani, come Indigo Film, che è una casa che ha assurta gli onori delle cronache grazie al Festival di Cannes, con la vittoria di Paolo Sorrentino. Avete avuto problemi a far capire quanto il mondo stava cambiando e a far capire che il mondo forse aveva bisogno di un servizio come questo? Sì, i problemi ci sono stati e devo dire che non sono finiti, nel senso che le case cinematografiche ancora hanno qualche piccola diffidenza nei confronti del web, perché temono sempre che la distribuzione in rete, quando anche sia legale, autorizzata, realizzata poi tecnicamente in maniera molto sicura, possa dare adito a qualche scappatoia, quindi che ci sia sempre dietro il rischio della pirateria. Però devo dire che nel giro di 2 anni le cose sono molto cambiate. Agli inizi, confesso, è stato molto difficile convincere le case cinematografiche a lavorare con noi. Oggi sicuramente godiamo di una discreta credibilità e siamo convinti di poter lavorare sempre meglio. Senti, una domanda molto semplice, ma che molti si faranno: quanto costa noleggiare o acquistare un film? Certo. Su Film Is Now? Su Film Is Now un film in noleggio costa 2,99 euro oppure 3,99 euro. Abbiamo solo 2 fasce di prezzo e il noleggio da noi funziona per 5 giorni consecutivi. Quindi con 2,99 euro il nostro cliente può scaricarsi il film e vederselo infinite volte per 5 giorni consecutivi. Alla scadenza del 5° giorno la password, la chiave che cripta, che chiude il film nei confronti delle fruizioni pirata, cessa di esistere, quindi il file rimane disponibile sul PC, ma è un file ormai inutilizzabile. Mentre l'acquisto, per completare la risposta, va da un minimo di 4,90 € a un massimo di 11,90 €. Si trovano film nuovi, e per nuovi intendiamo quelli che escono in DVD. Assolutamente. Noi abbiamo con la gran parte delle case cinematografiche l'accordo, il cosiddetto day and date, come dicono gli americani, ovvero l'uscita in contemporanea con il DVD. La scorsa settimana abbiamo messo in vendita Amore, bugie e calcetto con Claudio Bisio, per esempio, il giorno stesso in cui è uscito in videoteca. E poi abbiamo anche tutta una serie di altri film che sono un po' il mio orgoglio personale, perché sono un appassionato di cinema, che io definisco i cosiddetti introvabili, titoli di culto che ormai non sono più disponibili nel mercato audiovisivo tradizionale, quindi grandi film del cinema muto, piuttosto che film di piccoli produttori indipendenti, di piccoli filmmaker che non hanno mai visto la luce in sala cinematografica. Senti, dove li tenete questi film? La domanda punta anche a capire, certo, quanto sono grandi i vostri server. Abbiamo dei server molto grandi. Noi abbiamo dei server che, per non fare pubblicità, abbiamo un accordo con il data center di una delle più importanti società di telecomunicazioni italiane. Quindi abbiamo disponibilità di storage, quindi di immagazzinamento molto molto molto importanti. I film parecchi tera, se posso esprimermi in questi termini. Noi ci occupiamo di tutta la filiera, quindi noi prendiamo il master in beta digitale piuttosto che il master DVD che ci viene consegnato ufficialmente dalla casa cinematografica e facciamo il cosiddetto processo di encoding, quindi facciamo diventare il prodotto da supporto fisico a prodotto immateriale a file di Windows Media Video. Lo immagazziniamo, lo criptiamo con il cosiddetto sistema di Digital Rights Management di Microsoft, che è quello che è voluto dalle case cinematografiche, e dopodiché il titolo viene pubblicato nel nostro sito, che è filmisnow.it. Senti, grosso modo, basandoci su una media dei collegamenti ADSL italiani, quanto ci si impiega a downloadarlo, un film? Con una banda larga media, quindi medio-bassa, intorno a 1,2 mega, 1,5 mega, di solito ci si impiega un poco più di un'ora a downloadare un film che è lungo 1,5 ore, la durata classica dei 90 minuti, però con un grande vantaggio: il nostro è un sistema cosiddetto di download progressivo. Dopo i primi 10 minuti di download il film è già fruibile, quindi non ci sono tempi lunghi di attesa. Devo anche dire che con la disponibilità di ADSL ancora più performanti, oggi ormai si vendono le ADSL a 7 mega e addirittura con i mega internet dei provider che fanno da 10 mega in su, un film può essere reso disponibile anche in 20 minuti. Sì. Quindi sicuramente, insomma, i tempi sono piuttosto veloci. Molto brevi e assolutamente non paragonabili ai tempi invece che richiede il download illegale. Certo. Che sono ore e ore e ore di nottata per scaricarsi un film, ammesso che poi venga scaricato il film giusto. Sì, esatto, esattamente. Beh, adesso ci fermiamo per un minuto, riprendiamo tra poco a parlare di film su internet, ma poi questi film vanno visti sul computer o sulla TV? Stiamo parlando di film digitali, ma soprattutto di film che vengono erogati in modalità legale su internet. Ne stiamo parlando con Maurizio Ferrari, che si occupa dello sviluppo del business di filmisnow.it. Maurizio, questi film sono destinati ad una visione sul computer, sul PC, che è lo strumento che si utilizza per accedere al sito internet e che si utilizza per navigare in internet, oppure è possibile, così come capita solitamente quando si guarda un film, vederli alla TV e magari in salotto? Ora, non abbiamo ancora raggiunto, premetto, la soluzione ideale, quella che il sottoscritto vuole da tanto tempo. Però il film viene scaricato sul PC e sul PC deve rimanere, non può essere masterizzato. Però collegando il PC con la presa audio video al televisore, il film viene fruito in televisione ad ottima qualità. E poi esistono oggi dei sistemi che fanno da hub multimediale fra il televisore e il PC, cioè che sono in grado di leggere i contenuti della tua cartellina multimediale del tuo PC e con un collegamento wireless trasmetterli direttamente in televisione e con una resa veramente eccezionale. Senti, grosso modo, quanti sono i vostri clienti? Dunque, noi oggi abbiamo già battezzato i 15.000 clienti. Noi abbiamo 15.000 clienti che hanno effettuato almeno un acquisto su Filmisnow e grosso modo abbiamo circa 1.000-1.500 clienti al mese. Faccio una domanda che ho fatto in passato anche ad altri che si occupano, che hanno realizzato servizi su internet. Il modo migliore per farsi conoscere, perché la rete è un luogo dove spesso si rimane nascosti ed è difficile farsi trovare, per questo sono nati motori di ricerca, eccetera, eccetera. Voi avete trovato un buon equilibrio? Sì, lo abbiamo trovato grazie soprattutto a un ottimo lavoro di indicizzazione nei motori di ricerca. Oggi se si va a cercare su Google, che è ormai ovviamente il più utilizzato, qualcosa come film download, film da scaricare, film online, Film Is Now è tra i primissimi link indicati. Quindi l'indicizzazione oggi è in realtà il nostro passaparola. Abbiamo fatto anche qualcosa a livello di web marketing, onestamente molto poco fino ad oggi, ma abbiamo dei programmi un pochettino più ambiziosi per l'anno venturo, perché in effetti quello che dice è sacrosanto. La visibilità sul web è fondamentale, bisogna spingere sull'acceleratore per farsi conoscere. Il motore di ricerca è ormai una chiave di volta fondamentale, però anche, ed è lì che stiamo puntando, gli accordi con i grandi portali possono essere un'altra chiave di successo. Poco fa, prima dell'intervista, stavamo facendo alcune considerazioni sul mercato illegale, perché naturalmente quando si parla del mercato legale dei contenuti digitali, dei contenuti culturali, non si può non fare riferimento a questa massa di dati che gira in rete. E tu dicevi, questi sono i nostri principali concorrenti, anche se questi non si capisce chi siano. Certo, molti degli utenti della rete. Innumerevoli soggetti non ben identificati. Esatto. Tu sicuramente, immagino, insomma, avrai una tua idea su come è possibile affrontare questo problema, perché se ancora oggi non abbiamo visto delle conseguenze gravi sul mondo della produzione di contenuti culturali, è molto probabile che li vedremo nei prossimi anni, mano a mano che i sistemi digitali in generale, internet, si diffonderanno. In verità i primi gridi di dolore si sono già avuti, abbastanza chiari e abbastanza forti, da parte dei produttori di musica innanzitutto, di cinema, ma anche dall'industria editoriale, perché nei circuiti peer-to-peer incominciano a essere distribuiti anche i libri. Libri che vengono ripresi a scanner e vengono poi messi a disposizione come un file PDF. Quindi in realtà il problema esiste già, non è ancora esploso, come dicevi giustamente, ma in molti paesi d'Europa si stanno prendendo dei provvedimenti. Ecco, io credo molto innanzitutto al mettersi intorno a un tavolo e decidere di fare qualcosa. Ad oggi questo non è accaduto nel nostro paese, però è stato istituito proprio recentissimamente un tavolo di lavoro contro la pirateria, ovviamente al quale noi ci siamo subito candidati, che studierà insieme ai titolari dei diritti, quindi tutti coloro che spendono soldi per far produrre opere dell'ingegno, opere culturali come un disco piuttosto che un film o anche un libro, e tutti coloro che oggi si ritrovano più o meno volontariamente a distribuire il prodotto illegale, perché gli internet service provider oggi in realtà offrono loro malgrado la miglior autostrada possibile per viaggiare velocemente in modo illegale senza pagare dazio, senza pagare nulla al casello. Quindi come è successo in Francia, laddove si sono già prese delle misure, gli internet service provider in Francia sono obbligati a controllare, a monitorare ciò che fanno i loro utenti. Gli utenti che, se vengono colti in flagrante nella fruizione di contenuti illegali, vengono avvisati. Al terzo avvertimento email, in Francia un internet service provider è obbligato a cessare l'abbonamento web, quindi l'abbonamento ADSL a quel cliente. Quindi tu sei d'accordo che questa è la strada forse più semplice per riuscire a limitare, a circolare? Io temo di sì, perché altrimenti vedo poche altre possibilità oggi allo stato delle cose. Per converso ci possono essere invece, ribaltando la visione delle cose, delle operazioni completamente diverse, ma che trovo un po' difficili da percorrere. Per esempio, recentemente Mauro Mazza, che è il presidente della Federazione Italiana della Musica, ha proposto: voglio ribaltare le regole del gioco, diamo internet gratis, sì, e facciamo, sì, pagare i contenuti. Ecco, temo che questo sia ancora più difficile da far digerire agli internet service provider che non invece un maggior monitoraggio sulle attività dei loro clienti. In Francia ci stanno riuscendo, non solo in Francia, ma la stessa linea è stata adottata in Gran Bretagna e anche in Germania. Noi al momento siamo al palo, cioè siamo ai blocchi di partenza, ma oggi auspichiamo che con il lancio di questo tavolo di lavoro, che peraltro è presieduto, voluto dal Ministero dei Beni Culturali e presieduto dal segretario generale della Presidenza del Consiglio, che è Mauro Masi, noi auspichiamo che si possa fare qualcosa di veramente concreto. Molto bene, io ringrazio Maurizio Ferrari per essere stato con noi. Ricordiamo www.filmisnow.it, sito internet italiano. Vendete film solo in Italia per il momento? Non avete creato filmisnow.eu? No, il filmisnow.eu esiste già. Questa è una piccola primizia, perché in realtà noi abbiamo ricevuto manifestazioni di interesse anche del resto di Europa. Il business è replicabilissimo. Il business è replicabilissimo, con un piccolo particolare però, che non è così piccolo. Nell'industria cinematografica e dell'audiovisivo vige la regola del limite di territorio e di lingua. Sì. Oggi Filmisnow può operare solo all'interno dei confini italiani e solo con prodotti in lingua italiana. Il nostro lavoro, un altro grande passo che vogliamo fare, è quello invece di andare ad aprire il campo alle cosiddette licenze multiterritoriali e multilingua, che sono però una battaglia incredibile. Ti capisco. Perché altrimenti il web in realtà viene limitato, forzato inutilmente, senso. No? Sì, esatto. In un mondo dove i confini sembrerebbero non esserci più, in realtà, Ci sono ancora. Ci sono ancora. Bene, grazie a Maurizio Ferrari per essere stato con noi. Buon lavoro, a presto. Grazie a voi. A proposito della posizione francese in materia di diritto d'autore e di lotta alla pirateria, a cui abbiamo accennato, c'è da registrare il parere contrario della Commissione e del Parlamento europeo. Questa settimana la Commissione ha risposto con un netto no ad una richiesta precisa del presidente Sarkozy di bocciare la posizione dell'Europarlamento, che si era già espresso contro il progetto di legge francese per la protezione della proprietà intellettuale su internet. Ricordiamo appunto che è un progetto di legge, dovrebbe essere approvato e il tutto dovrebbe entrare in vigore il prossimo anno, quindi tutto non è ancora operativo, ma la strada è quella. La nuova legge che dovrebbe appunto essere approvata attribuisce, come abbiamo detto, all'Authority di Regolazione Nazionale delle Telecomunicazioni il potere di monitorare il traffico via internet e tagliare il collegamento alla rete ai presunti pirati. Il Parlamento europeo, nel dare via libera al pacchetto Telecom la scorsa settimana, ha approvato una sorta di censura preventiva nei riguardi di questo progetto di legge, approvando tra l'altro a grandissima maggioranza, 573 voti contro 74, un emendamento in cui si chiede ai regolatori nazionali di applicare il principio secondo il quale, salvo il caso di minaccia per la pubblica sicurezza, nessuna restrizione può essere imposta sui diritti e le libertà fondamentali degli utenti finali senza la previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria. L'Europarlamento considera quindi l'accesso ad internet parte delle libertà d'espressione e non può essere negato solo per evitare atti di pirateria informatica. Pensate che Sarkozy aveva addirittura scritto al presidente della Commissione europea Barroso chiedendogli di non sostenere questo emendamento. E mentre il dibattito in Francia e in altri paesi europei è già in fase avanzata, in Italia, come dicevamo, siamo alle fasi preliminari, perché solo nelle prossime settimane si riunirà la Commissione contro la pirateria multimediale e digitale coordinata, come ha ricordato Maurizio Ferrari, dal segretario generale della Presidenza del Consiglio Mauro Masi. Vedremo come i lavori saranno impostati, ma c'è già chi protesta perché sarebbero rappresentati solo gli interessi dei titolari dei diritti. Attualmente, ricordiamo, la legislazione italiana viene considerata tra le migliori, ma i controlli sono scarsi ed è per questo che in Francia sono stati coinvolti i provider. Se prendiamo in considerazione il caso del peer-to-peer, a parte i casi dove ci sia il fine di lucro, esiste una sanzione per illecito penale che va da 51 a 2.065 euro, il caso in cui venga scambiata, ad esempio, scaricato o messa a disposizione una canzone in rete. Riprendiamo tra poco questa puntata di 2024, parleremo di tecnologia. Poco fa abbiamo accennato ad esempio agli hub digitali che si diffondono lentamente nelle case. Bene, come collegarli alla casa vera e propria, nell'ambiente in cui viviamo? Seguiteci ogni settimana nel pomeriggio del sabato di Radio 24 tra le 15.30 e le 16.30 In questa settimana, in via del tutto eccezionale, vista l'assenza del campionato di calcio, la partita serale del campionato di calcio, anche alla domenica sera. Ci trovate poi su internet www.radio24.it. Tutte le informazioni per scaricare, per downloadare il nostro programma sono online, oppure se volete potete inviarci una email a 2024@radio24.it. Io sono Enrico Pagliarini e adesso proseguiamo questa puntata parlando di una iniziativa che avvicina i ciechi alla lettura dei quotidiani di carta, un progetto che coinvolge anche il Sole 24 Ore. 300.000 i non vedenti, più di 1 milione gli ipovedenti, una grossa parte della popolazione in Italia, quella che finora ha avuto difficoltà ad accedere alla lettura dei quotidiani, ma la tecnologia ancora una volta aiuta a superare molte barriere. Verrà presentato un progetto unico ed innovativo che ha lo scopo di permettere al disabile visivo la consultazione e la lettura dei quotidiani, sia in edizione nazionale che locale. Una voce simile a quella appena ascoltata aiuterà i non vedenti a leggere ogni giorno diversi giornali italiani. Grazie ad un software facilmente utilizzabile anche dai meno esperti di informatica, sarà infatti possibile ascoltare gli articoli scritti sui principali quotidiani. In pratica l'articolo diventa una voce narrante e questa nuova lettura fa parte di un progetto che partirà all'inizio di novembre, che permetterà di avere a disposizione i quotidiani contemporaneamente al loro arrivo nelle edicole, mettendo sullo stesso piano tutti i lettori. Un servizio fortemente voluto dall'Unione Italiana dei Ciechi. Salvatore Romano è componente della direzione nazionale. Mettiamo nella condizione anche persone che nulla hanno a che fare con l'informatica, pensiamo alle persone anziane, quindi persone che giustamente sono diffidenti rispetto a queste tecnologie, ad avvicinarsi invece a una situazione importante come quella della lettura del quotidiano, che quanto di più informativo e formativo vi possa essere. Il servizio e l'intervista erano di Stefano Totoro. Come avete sentito, le tecnologie di sintesi vocale sono migliorate molto negli ultimi anni, ma i passi da fare sono ancora molti per raggiungere una naturalità che ancora manca alle macchine. Esistono molti sistemi di sintesi vocale, alcuni che si installano sul proprio computer, che quindi ci aiutano a leggere testi che magari abbiamo scritto noi, altri che invece vengono erogati via web e permettono la lettura del testo su internet. Uno dei più utilizzati è Read Speaker. Sentiamo come la stessa sintesi vocale si presenta leggendo il testo che abbiamo trovato sul sito di questa azienda svedese. Read Speaker è un servizio che rende il vostro sito web più accessibile grazie ad una voce sintetica che legge il contenuto della pagina al visitatore. Lo sviluppo di Read Speaker è iniziato ad Uppsala, Svezia, nel 1999. Questa è la sintesi vocale in italiano. Esistono sintesi vocali per moltissime lingue. Questo è un breve brano di un articolo letto sul sito internet dell'International Herald Tribune, dove esiste la soluzione Read Speaker. The cost of talking on the go is coming down, thanks to an increasing number of options for using internet calling services on cell phones as an alternative to traditional cellular service plans. 10 secondi per rendersi conto di quanti passi in avanti ha fatto la sintesi vocale. Non si tratta solo di una soluzione per chi non vede, ma anche per chi non ha voglia di leggere e desidera magari ascoltare la pagina di un sito internet. L'Italia in questo settore non è sicuramente seconda a nessuno. Esiste un'azienda che abbiamo avuto ospite anche a 2024, Loquendo, che realizza proprio questi sistemi. Adesso proseguiamo questa puntata di 2024. Come vi ho anticipato all'inizio del nostro programma, oggi vogliamo occuparci del rapporto tra la tecnologia, tra gli strumenti che spesso riempiono le nostre case, e l'ambiente in cui viviamo. Parleremo proprio di soluzioni pratiche da pensare, alle quali fare attenzione quando o acquistiamo una casa nuova o siamo in fase di ristrutturazione o stiamo addirittura costruendo una casa. Il nostro esperto di audio e di video digitale è Gianfranco Giardina, direttore di AF Digitale. Gianfranco, bentornato a 2024. Grazie mille, bentrovati a tutti gli ascoltatori. Tu, Gianfranco, dici che la tecnologia in futuro, già oggi, ma soprattutto in futuro, si scontrerà con un problema di ambientazione. Che cosa vuoi dire? Poi spieghiamo anche di che cosa vogliamo occuparci oggi. Beh, voglio dire che tutte le tecnologie consumer per l'audio, video, comunque per l'intrattenimento domestico, sono molto avanzate, sono molto, molto belle, molto coinvolgenti, lo vediamo tutti i giorni. Le nostre case non sono altrettanto avanzate per accogliere questa tecnologia molte volte, e quindi c'è il rischio, un rischio che in alcuni casi non è più neanche un rischio ma una certezza, che il limite vero all'adozione di queste nuove tecnologie non sia la capacità degli utenti di usarla o di comprendere la tecnologia, ma proprio la possibilità di inserire in casa, senza avere un impatto devastante, tutti questi apparecchi. Le case sono rimaste le stesse di molti anni fa, ma gli apparecchi che vivono insieme a noi in casa sono molti di più. Ovviamente. E spesso sono progettati in funzione di una casa tecnologicamente avanzata. Sì, ahimè, la casa, l'abitazione media in Italia quantomeno non è tecnologicamente avanzata, o meglio non è predisposta per gestire tanti apparecchi tecnologicamente avanzati. Adesso magari vediamo poi nel dettaglio quali possono essere gli interventi da fare anche semplicemente su una casa già esistente, oppure quelli che meglio ancora si possono fare in fase di costruzione o ristrutturazione di un immobile esistente. Stiamo parlando naturalmente di interventi che richiedono tecnologie disponibilissime. Assolutamente sì. Competenze, e qua poi magari approfondiamo, più o meno disponibili, perché purtroppo è esperienza quotidiana lo scontro con artigiani, quelli che girano attorno alla casa, che sono tecnologicamente poco avanzati o comunque che non si informano sulle novità, ma di qualsiasi genere, in qualsiasi settore, sia nell'idraulica, sia nel campo elettrico, eccetera, eccetera. Stiamo parlando di interventi molto costosi o stiamo parlando di interventi alla portata più o meno di tutti? Oggi quando parliamo di, giusto per fare un esempio, di TV moderne, oramai parliamo di prodotti alla portata della stragrande maggioranza della popolazione, insomma molti possono fare questo investimento. Quando parliamo invece dell'infrastruttura che deve esistere in casa, di che cosa stiamo parlando? Ma dipende molto da quando si interviene. Se si sta costruendo o ristrutturando casa, mettere una canalizzazione all'interno del muro in più, oppure farla semplicemente più generosa in modo tale che passino più cavi, ha un costo pressoché irrisorio, anzi direi che non ne ha. È più la manodopera di mettere il tubo corrugato dentro il muro che il tubo corrugato, che se magari è di 2,5 cm di diametro invece che il classico 1,5 che viene messo, il costo è praticamente identico. Quindi sono interventi che, se fatti nel momento giusto, non hanno alcun impatto, ma cambiano completamente poi l'esperienza di abitazione, sì. E quindi la possibilità di ambientare i vari prodotti senza impatti, senza cavi a spasso, senza grosse difficoltà, e anche in sicurezza, perché molte volte è anche un problema di sicurezza elettrica. Farlo ovviamente dopo può essere più complicato, perché poi si tocca, come dire, rispaccare il muro, e purtroppo le case in Italia sono ancora fatte con metodologie costruttive molto vecchie, cioè il mattone forato è sì, sicuramente sono le nostre, è tipico delle nostre abitazioni da 100 anni, da 50 anni. Il problema è che basti pensare a questa come dire, razionalità completa, per cui il primo giorno arriva un muratore, fa un muro di mattoni forati, il secondo giorno arriva un altro muratore e spacca questo muro per far passare i cavi. Esistono delle soluzioni costruttive già che a priori hanno, come dire, precostruiti i passaggi per i cavi, in modo tale che tutto sia molto più semplice, non sia necessario costruire per poi rompere. Però questo è chiaro che avviene in una fase proprio di scelta costruttiva. L'impianto tradizionale che si fa da noi prevede appunto la rottura dei vecchi mattoni e il passaggio di un tubo corrugato. Anche lì ovviamente se è fatto all'inizio costa poco, in fase di ristrutturazione costa poco. Se devo fare solo per un'esigenza, per esempio di sistemare un impianto on theater, fare una canalizzazione che arriva fino ai canali posteriori, quello può essere ovviamente anche molto costoso. 2024. Siamo con Gianfranco Giardini, il nostro esperto di audio e video digitale, direttore di AF Digitale. Gianfranco, stiamo parlando dell'ambiente in cui viviamo e del rapporto di come dovrebbe essere predisposto per accogliere la tecnologia che sempre più spesso acquistiamo. Senti, parlavamo di cavi, a che cosa stiamo facendo riferimento in particolare? Diciamo quattro categorie fondamentalmente. L'impianto elettrico vero e proprio, quindi quello che porta la corrente elettrica a tutti gli apparecchi e in tutti i punti in cui serve. A norma di legge, perché l'impianto sia conforme, ovviamente è necessario che tutto l'impianto elettrico giri in canalizzazioni e scatole destinate solo esclusivamente all'impianto elettrico. Dopodiché bisogna avere un impianto che normalmente nelle case è un impianto telefonico, in realtà in un impianto intelligente, più intelligente, insieme ai cavi telefonici gira anche la distribuzione della rete, di una rete Ethernet per distribuire la banda internet che oramai è richiesta sempre più da un numero maggiore, sempre maggiore di apparecchi. Il terzo mondo dei cavi è quello dei cavi audio per i diffusori, per esempio per un sistema, un theater, per cui insomma, può essere necessario fare qualche canalizzazione dedicata ai segnali audio per portarli per esempio sul fronte posteriore o per i segnali video. Penso per esempio a un videoproiettore che, se sono state fatte le predisposizioni per portare il segnale video al centro della stanza, nel soffitto, è facilissimo da installare. Se il segnale video non c'è al centro della stanza, ecco che diventa pressoché un incubo installare un videoproiettore. Sì. Quindi anche lì bisogna poi distinguere. Poi c'è un'ultima categoria che riguarda più che altro dei servizi, come può essere l'impianto di sicurezza, quindi antifurto, eccetera, eccetera, che può essere interessante ovviamente prevedere in fase di costruzione o ristrutturazione. Cavi d'antenna? Cavi d'antenna anche. I cavi d'antenna anche loro devono avere una loro canalizzazione separata e con tutti i distinguo del caso sull'antenna terrestre ovviamente e l'antenna satellitare, quindi ci sono delle possibilità di passare sul medesimo cavo entrambi i segnali e poi con un piccolo oggetto che si chiama demux, appunto, separare i due segnali soltanto a valle, quindi soltanto sulla presa dell'utente, in modo tale che ci siano i due spinotti, sì. Due connettori, che però sono sistemi che forniscono prestazioni non ottimali perché non tutta la banda satellitare passa, bisogna scegliere quale fetta della banda modulare sul segnale, sull'unico cavo d'antenna. È sempre meglio avere una distribuzione a doppio cavo, ma anche qui poi sono temi che su domande magari specifiche potremmo anche approfondire. Sì. Senti, queste sono le preoccupazioni che uno deve avere soprattutto in fase di costruzione e ristrutturazione della casa. Se uno la casa ce l'ha già, piccoli interventi possono essere fatti per migliorare molto le cose. Un caso classico è quello della distribuzione del segnale di rete. Tutti coloro che hanno la banda larga in casa e quindi le connessioni sempre attive a internet hanno un apparato, un router generalmente, collegato o alla linea telefonica se è una DSL o alla fibra se chiaramente l'appartamento è servito con la fibra ottica, dal quale parte una o più connessioni Ethernet per collegare i computer e in alcuni casi questo oggetto è anche un access point, quindi permette di collegarsi a internet senza fili, quindi creando una rete wifi domestica. Ecco, questo oggetto generalmente è posto dove arriva la scatola principale telefonica, il gestore che fa l'installazione lo installa lì. Ecco, non sempre questa è la collocazione ideale. Con piccoli interventi sulle canalizzazioni del telefono, che ormai normalmente nelle case sono distribuite in tutte le stanze, anche se ovviamente poi grazie ai telefoni DECT i cordless, tanto per intenderci, ormai non tutte le prese vengono utilizzate, anzi Anzi, molti cominciano a non avere neanche più il telefono fisso, quindi molti infatti non hanno neanche il telefono fisso. Bypassano il problema. Ecco, quelle canalizzazioni possono essere utilizzate per distribuire una rete a filo. Una rete a filo, contrariamente a una rete Wi-Fi, è sicuramente affidabile, quindi non è soggetta nelle distanze domestiche a nessun tipo di decremento qualitativo, contrariamente a Wi-Fi, che magari nella stanza dove c'è l'access point si piglia bene e spostandosi di due stanze più in là il segnale diventa molto molto debole, e ha una banda nettamente superiore, più adeguata alle applicazioni audio-video. Mi spiego, navigare in internet per vedere un sito può essere pressoché equivalente, ma incominciare a far viaggiare sulla rete domestica dei contenuti audio-video, magari neanche prelevati da internet, ma prelevati da un home server, come è sempre più frequente che accada, semplicemente perché ho, per esempio, non lo so, una macchina con un hard disk, un DVD recorder con l'hard disk che mi permette di condividere i contenuti in altre stanze. Ecco, se io devo far viaggiare audio e video sulla rete, se vado in Wi-Fi posso avere dei blocchi, Dei rallentamenti, o addirittura non essere in condizione di fare questa cosa. Sì. Con una rete a filo sono sicuramente affidabile, non ho problemi di cattive configurazioni che magari mettono in condizione l'access point di bloccarsi. Sì, la capacità del cavo è sicuramente superiore a quella del Wi-Fi. Riesco a fare una distribuzione in tutte le stanze e avere una presa o più prese con interventi che non richiedono interventi di muratura, perché si utilizzano gli stessi canali utilizzati per il telefono. Ovviamente ci vuole che un impiantista, un elettricista minimamente capace ovviamente, dia un occhio a come è costruito l'impianto in termini di topologia. Quindi se le canaline vanno da una scatola all'altra, oppure, come meglio che sia, convergono tutte in una scatola di derivazione. Se tutte le scatole di casa convergono in una scatola di derivazione, può risultare per esempio molto semplice fare una cosa simile. Nello stesso momento si può verificare se c'è una posizione, magari facilmente occultabile, per esempio in un controsoffitto, che sia sufficientemente baricentrica rispetto all'appartamento, quindi sufficientemente centrale, per installare l'access point, quindi per avere una copertura anche Wi-Fi, perché comunque è comodo per esempio navigare internet sul divano con il proprio portatile, però farlo con un buon segnale su tutta la casa. Troppe volte gli access point sono invece messi in un ambiente della casa che non è centrale, e quindi il servizio resta, come dire, limitato in alcuni punti. Va anche detto che chi ha le case su due livelli, questo è un, ecco, quindi per power esempio, line, possono usare power line, ma chi ha le case su due livelli, ecco, Wi-Fi, per come sono disposte le antenne, ha una buona propagazione in orizzontale, ma una propagazione nettamente peggiore in verticale, quindi sì, è facile che un access point serva bene tutto il piano, ma non salga o salga in maniera peggiore al piano di sopra. Allora lì un cablaggio a filo tra i due piani e due access point permettono di avere una copertura. Poi parliamo anche delle power line, che sono una soluzione interessante, però vorrei continuare e farti un'altra domanda su il rapporto tra la differenza, insomma, i pro e i contro tra wireless e cavo. Io preferisco il cavo, poi mi sembra di capire anche che tu preferisci, certo, il cavo, anche tecnologicamente, insomma, da preferire generalmente il cavo dove è possibile. Abbiamo recentemente parlato, ad esempio, di wireless HD. Sappiamo che esistono varie tecnologie wireless anche per l'audio e soprattutto per l'audio. Volevo capire, anche in questo caso è meglio usare i cavi o, ad esempio, un impianto home theater con alcuni diffusori wireless funziona benissimo, quindi evitiamo di tirare appunto nuovi cavi in casa? Oramai gli impianti home theater con i diffusori wireless, soprattutto i posteriori che sono i più difficili da raggiungere, funzionano benissimo, sono affidabili, anche perché lavorano comunque a frequenze e con potenze assolutamente limitate, visto che tutto si svolge nella stessa stanza, sì, cioè non bisogna uscire dalla stanza, quindi le potenze in gioco sono molto limitate. Va detto, sempre sulla querelle, perché è anche una querelle filosofica, se vogliamo, tra filo e wireless, che molti preferiscono, come dire, al di là di tutte le rassicurazioni che arrivano dagli studi scientifici di ogni tipo, preferiscono comunque limitare la propagazione di onde elettromagnetiche all'interno dell'ambiente domestico. Quindi è vero che il Wi-Fi arriva dappertutto, ma qualcuno è disposto, sì, a spendere qualche soldo in più, magari, o a qualche avere qualche fastidio in più in fase di installazione, per non avere magari una distribuzione wifi in casa, sì, e farla a filo. Un'ulteriore onda elettromagnetica. Ecco, sì. Per evitare... Anche se va detto che se uno va a vedere i confronti tra l'emissione elettromagnetica di un telefonino cellulare che spesso teniamo vicino al nostro corpo e invece l'emissione di qualsiasi altro strumento, wifi e con altre tecnologie, siamo su livelli estremamente differenti. Insomma, assolutamente sì, quindi non c'è in realtà nessun rischio, comunque nessun rischio dimostrato per la salute, sì, però comunque qualcuno, come si dice, per non saperne leggere né scrivere, preferisce non avere niente, principio può farlo col cavo. Di precauzione. Certo. Senti, Powerline, questa è una tecnologia che sfrutta il cavo di rete, soprattutto in ambito domestico, per trasmettere dati. Il cavo di rete elettrica. Rete elettrica, sì. Sì. Sì, sì, il cavo della rete elettrica. Ne abbiamo parlato anche per esperimenti e soluzioni che vengono utilizzate in ambito metropolitano per distribuire internet. In casa esistono tecnologie abbastanza affidabili. Spiegaci come funzionano. Praticamente la tecnologia si chiama a onde convogliate, cosiddetto, utilizzano lo stesso impianto elettrico, che quindi è distribuito in tutta la casa, per distribuire anche su altre frequenze, ma sullo stesso cavo, anche dei dati. Quindi fondamentalmente si crea una rete dati sullo stesso cavo. Ovviamente ci vuole un apparecchio, un qualche cosa che traduce i dati in qualche cosa che possa viaggiare sulla rete elettrica, e dall'altro capo della rete elettrica, con una presa qualsiasi, ci vuole un altro apparecchio che possa, come dire, prelevare questi dati e ritrasformarli in una normale presa Ethernet come quelle di rete. C'è. Ecco, quindi con due borchie, come dire, con due apparecchietti messi uno a una presa e uno a un'altra presa della casa, si può creare una comunicazione da un punto all'altro della casa. Questo io mi sento anche in termini di costi, no? Di sconsigliarlo finché c'è la possibilità di collegarsi con una rete a filo tradizionale, quindi tirare una rete Ethernet con un piccolo cavo, perché comunque si ha un passaggio in meno e anche economicamente il cavo costa qualcosa meno. Però ci sono delle situazioni in cui intervenire sulle case senza rompere niente per far passare la rete è pressoché impossibile, e allora si utilizza questo metodo. In questo metodo ecco che per esempio il TV che accede alla rete internet, e adesso ce ne sono pochissimi, si contano sulle dita di una mano, ma in capo a un anno la maggior parte dei TV di una certa fascia avranno la presa di rete per poter sfruttare dei servizi via internet. Ecco che chi ha la presa Ethernet con la banda internet dietro il TV? Oggi pressoché nessuno. Ecco, domani sarà possibile, semplicemente aggiungendo una borchia dietro il TV dove c'è la presa di corrente e una dove abbiamo il router della banda larga, collegare a internet il TV senza rompere neanche nessun mattone, senza aprire neanche una scatola elettrica. Quindi una cosa che può fare assolutamente l'utente senza bisogno di nessun elettricista e impiantista, e questo sicuramente risolve molti problemi. Io amo dire che la tecnologia ci offre delle cose fantastiche, ma c'è il rischio serio che le case respingano questa tecnologia. Ecco, chi vorrebbe spendere anche forse 50 euro in più per un televisore che si collega a internet se poi non ha il collegamento internet dietro il TV? Certo. Nessuno. Si può fare con semplicità, semplicemente basta sapere che esistono queste soluzioni. Bene, grazie a Gianfranco Giardina, direttore di AF Digitale, a presto e buon lavoro. Grazie mille e alla prossima volta. E noi concludiamo questa puntata di 2024, torniamo la prossima settimana, ci trovate anche su internet www.radio24.it. Io sono Enrico Pagliarini, vi ricordo che la prossima settimana torna a Milano SMAO, Radio 24 seguirà il Salone della Business Technology tutti i giorni da martedì 15 a sabato 18 ottobre con uno speciale in onda ogni sera tra le 21.45 e le 22. L'augurio di un buon ascolto con i programmi di Radio 24. You are disconnected. Bene Gianfranco, adesso per noi c'è una breve pausa, riprendiamo tra poco. Parleremo di questo e di altro tra poco a 2024. Ne parliamo tra poco.